Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Oggi a Destini Incrociati si parla di spie, di uomini che hanno segretamente votato la propria vita alla causa di un paese o di un ideale. Le storie di queste persone, da sempre, stregano ed affascinano l'immaginario di tutti noi attraverso le pagine dei libri, gli schermi dei cinema o più semplicemente attraverso i titoli dei quotidiani e le voci degli anchorman. Giusto di recente, le cronache hanno portato alla ribalta la vicenda della bella Anna Chapman, spia russa infiltrata negli Stati Uniti ed edita loschi traffici ancora tutti da chiarire. I servizi segreti britannici hanno avviato un'investigazione sulle relazioni di uno degli 11 sospettati di essere agenti segreti russi operanti sul suolo americano. Si tratta di una 28enne di nazionalità russa, Anna Chapman, che ha vissuto per 5 anni sul suolo britannico prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Diamo la linea alla nostra inviata da Londra. La bellissima Anna, sguardo glaciale, incorniciato da capelli rossi lunghi e fluenti, è accusata di essere una spia al servizio dei russi. È per questo che lo scorso 27 luglio viene arrestata a New York City insieme ad altri suoi connazionali. E si sa come vanno certe cose sul suolo americano. La giovane viene immediatamente rispedita al mittente senza troppi complimenti. Giusto qualche settimana fa, la Chapman è tornata sulle pagine dei giornali e sugli schermi dei computer di mezzo mondo. L'avvenente spia, infatti, sta di nuovo mandando in subbuglio il web con foto e video ultra sexy. Appena tornata in Russia, infatti, Anna non ha perso l'occasione per far parlare di sé ed ha accettato l'invito della popolare rivista Zara di posare per un servizio di moda in abiti decisamente succinti. Anna, disinvolta ed estremamente consapevole del suo fascino, si diverte a mostrare le proprie curve sullo sfondo del Cremlino, unendo in un gioco pericoloso e provocatorio le sue doti innate con uno dei simboli più persistenti della cultura, della politica e dell'immaginario russo. Ma non è finita qui. La stessa rivista Zara si è infuriata con Anna, accusata di aver postato sul proprio profilo di Facebook alcune delle immagini del servizio fotografico finite immancabilmente sulla rivista concorrente. In un breve messaggio sulla sua bacheca, la spia spiega di sentirsi libera di utilizzare come meglio crede le immagini che la ritraggono, rivendicando una volta per tutte la propria emancipazione. Impossibile resistere al fascino della spregiudicata e conturbante Anna, un po' spia e un po' gatta, un po' sexy e un po' pericolosa. Del resto, una lunghissima lista di Bond Girls negli ultimi 50 anni ci ha insegnato che le due cose possono sposarsi senza alcuna difficoltà. Caporale del servizio segreto Tatiana Romanova. Entra. Le tue note caratteristiche sono ottime. Lo Stato è fiero di te. Grazie, compagno colonnello. Togliti la giacca. Voltati. Sei proprio una bella ragazza. Siediti. Vedo che hai studiato ballo. Poi sono cresciuta 2 centimetri oltre il limite, così. Vedo anche che hai già avuto 3 amanti. Sono proprio necessarie queste domande così intime. Non sei tu che devi fare delle domande. Dimentichi a chi stai parlando. Ero innamorata. E se non fossi innamorata? Certo, dipenderebbe dal tipo di uomo. Risposta sensata. Dalla Russia con amore, diceva Ian Fleming, creatore del celeberrimo agente 007. Se Bond è di certo l'infiltrato più famoso, è altrettanto certo che non sia stato e non sia l'unico. Giusto negli anni 60, il primato dell'agente interpretato da Sean Connery viene insidiato sul piccolo schermo da una serie che, in quanto a stile, ha decisamente fatto scuola. Tornano i Fantastici 5 di Missione Impossibile in nuove e meravigliose avventure. Tranquilli, la vostra radio non si autodistruggerà tra 10 secondi e in ogni caso i protagonisti di Mission Impossible farebbero davvero l'impossibile per giungere in vostro soccorso. Le storie di spie sono state declinate un po' in tutte le salse, dall'azione al dramma fino ai più lacrimosi risvolti sentimentali, non trascurando di passare ovviamente per la commedia. Signore e signori, con la mia macchina del tempo, io tornerò al 1975, acciufferò Goldmember e lo riporterò nel futuro. E la parte migliore di questo piano è che nessuno potrà fermarmi, neanche il povero Austin Powers. Non ne sarei così sicuro. Sei circondato, dottor Male. Vaffanculo. L'agente Austin Powers, nato come dichiarata parodia del compito agente al servizio di Sua Maestà, aggiunge alle serie tematiche di spionaggio una verve comica contagiosa. L'agente Powers, catapultato nella contemporaneità direttamente dagli anni 60, si comporta come uno spassoso straniero in terra straniera. E quel suo fascino un po' retro è riuscito a conquistare persino la pop star più acclamata del pianeta, Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna. Dramma alla commedia, dai libri agli schermi grandi e piccoli, da Jason Bourne, smemorato protagonista di The Bourne Identity, alla saga di videogiochi di Splinter Cell. La fortuna della fiction di spionaggio non conosce davvero tregua. Ma al di là del compatto e articolato muro della finzione, c'è sempre una verità da cui trarre sostentamento e ispirazione, ed è proprio da questa che vogliamo partire per raccontarvi la nostra storia, che è una storia vera, a differenza delle sceneggiature dei film o delle trame dei romanzi. Torniamo dunque alla realtà e andiamo a conoscere i protagonisti della nostra storia. Siamo nei sotterranei di un antico palazzo londinese, 4 o 5 piani ben al di sotto del livello della strada. Là sopra, all'aria aperta, troneggiano il Big Ben e la torre in cui secoli fa furono imprigionate Anna Bolena e la regina Elisabetta I. Ma i nostri protagonisti di oggi non possono di certo sentire il rumore del traffico o il richiamo stridente dei corvi appollaiati sui merli della torre. Questi individui, infatti, sono impegnati in una riunione strategica e segretissima in cui si giocano i destini della Guerra Fredda e del mondo intero. I due sono agenti dell'MI6, la sezione affari esteri dell'intelligence britannica. Condividono la stessa stanza, lo stesso mestiere e la stessa passione, o almeno così sembra. Le occhiate fulminanti che si scambiano, infatti, sono taglienti e allusive, quasi volessero preludere a un grosso cambiamento, a un evento che sconvolgerà le vite di entrambi. Uno dei due agenti nasconde un segreto. Il suo nome è Kim Philby. Kim Philby. Philby è sì un agente segreto britannico, ma da sempre lavora nell'ombra anche per un altro fronte, anzi peggio, per il fronte nemico per eccellenza. Philby fa controspionaggio per conto dei russi, acerrimi rivali sul duro palcoscenico della Guerra Fredda. Quali sono le ragioni di una scelta tanto pericolosa? Ripercorriamo la bruciante carriera di un uomo dall'identità affascinante e complessa. Siamo ad Ambala, in India. È il capodanno del 1912. Nell'aria echeggiano ancora i festeggiamenti della nottata appena trascorsa, quando nella casa del diplomatico ed esploratore inglese Harry St. John Bridger Philby viene alla luce il figlio Harold Adrian Russell. Tre nomi, ma un solo soprannome: Kim. Come il protagonista di un omonimo romanzo di spionaggio di Kipling, lo stesso autore del Libro della giungla. Un nomignolo, quello del giovane, che sembra già prefigurare il suo destino. Il giovane Philby si allontana presto dalle colonie britanniche e porta a termine i propri studi in Inghilterra, prima alla prestigiosa Westminster School di Londra, situata proprio accanto all'omonima abbazia, poi al Trinity College di Cambridge, dove ha modo di frequentare corsi di economia e di storia. Questi anni di formazione sono importantissimi e lo introducono a idee e principi che forgiano indissolubilmente il suo carattere. Kim, attraverso gli scritti di Karl Marx e Friedrich Engels, scopre la dottrina comunista e si appassiona alla causa al punto da decidere di addentrarsi a tutti i costi nell'ambiente sovietico, sottrattosi al regime zarista da poco più di un decennio e ormai decisamente avviato a percorrere la via del socialismo. È ormai la metà degli anni 30. Philby è poco più che ventenne. La sua passione è quella di un ragazzo, ma la determinazione è già da adulto. Capitalisti angli, americhi, franzi, veduti vai in uprecci. La voce che state sentendo è quella di Lenin, defunto leader della rivoluzione ed ex capo del partito bolscevico. Si tratta in questo caso di un discorso sui pericoli dell'antisemitismo. È a parole come queste che si ispira Kim Philby quando si rivolge alla Federazione Mondiale per l'aiuto alle vittime del nazismo di Parigi, associazione che lo mette direttamente in contatto con gli ambienti sovietici da lui tanto apprezzati. Il direttorato politico dello Stato, ovvero il regime di polizia sovietica in vigore nei primi anni 30, non ci mette molto ad accorgersi di lui. A partire dal 1936, infatti, Philby è attivo sul suolo tedesco con una precisa missione: costruirsi un'immagine filo-nazista e frequentare i gruppi politici britannici simpatizzanti per la Germania hitleriana. Non solo spionaggio, dunque, ma qualcosa di più. Philby non solo si muove da infiltrato, ma simula lo scopo di racimolare informazioni che giovino alla causa russa. Stiamo parlando degli albori del controspionaggio. È proprio in questa pratica che si specializza Philby. Sprezzante del pericolo ed eternamente votato alla causa sovietica, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale entra a far parte dei servizi segreti britannici, continuando però a lavorare anche per i russi. Divenuto in brevissimo tempo esperto di depistaggi e diffusione di notizie sotto falsa bandiera, ossia costruite in modo tale che se ne possa attribuire la paternità alla parte avversa, Philby viene messo a capo della sezione per gli affari iberici, incarico in cui si rivela efficientissimo. Sventato il sabotaggio di alcune navi britanniche da parte dei nazisti, il suo nome giunge alle orecchie dei boss dei piani alti, che scelgono di metterlo a capo della neonata sezione 9 in Unione Sovietica. Philby non potrebbe chiedere di meglio. Con due piedi sul suol dell'avvenire e una rispettabile facciata di agente al soldo degli inglesi, sarà molto più facile darsi al controspionaggio per conto dell'adorata Unione Sovietica. A quanto pare il controspionaggio a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale diventa incredibilmente di moda. A un collega russo di Philby, Konstantin Volkov, nel 1945 viene in mente di vendersi al Regno Unito promettendo di sciorinare l'elenco dei nomi degli agenti russi infiltrati sotto copertura nelle strutture britanniche. Per fortuna Philby, con grande astuzia, riesce a evitare di essere smascherato. Si fa immediatamente assegnare dai britannici l'incarico di recuperare Volkov e portarlo dall'ambasciatore inglese a Istanbul per cantargli i nomi promessi. Quindi vola a sua volta in Turchia e, sfruttando il ritardo dell'aereo del collega russo e la temporanea irreperibilità dell'ambasciatore, impegnato a festeggiare a bordo di uno yacht sul Bosforo, riesce a prendere il tempo necessario affinché i sovietici facciano sparire Volkov e lo riportino zitti zitti a Mosca. Per gli inglesi si tratta di un nulla di fatto e la doppia carriera di Philby può procedere nuovamente indisturbata. Per Philby sono pronti nuovi incarichi importanti. Prima viene nominato segretario dell'ambasciata di Istanbul, poi di quella di Washington nel 49, anno di nascita della CIA, con la quale si preoccupa di intrattenere i rapporti diplomatici per conto degli inglesi. Qualche anno dopo, nel 55, le improvvise defezioni di due colleghi britannici, Burgess e McLean, gettano anche su Philby il sospetto del doppio giochismo e della connivenza con i russi, ormai ufficialmente eletti i nemici numero uno degli occidentali. Secondo le accuse che gli vengono rivolte, Philby sarebbe il terzo uomo, ovvero il terzo elemento, insieme ai due colleghi volatilizzati, di un pericoloso triangolo di controspionaggio a favore dei russi e ai danni di inglesi ed americani. Ancora una volta Philby riesce magistralmente a mascherare la verità, negando qualunque coinvolgimento. Il signor Philby sta per tenere una conferenza stampa per respingere le accuse di essere coinvolto nella sparizione di Burgess McLean. Signor Philby, sembra che i servizi segreti non abbiano prove che lei sia stato il cosiddetto terzo uomo nell'affare Burgess McLean. È sollevato? Ovviamente. Dunque, sempre ipotizzando che davvero ci fosse un terzo uomo, non era lei? No, non ero io. Crede che ne esistesse uno? No comment. Elusivo, sfuggente e pronto a mentire non appena la menzogna si renda necessaria. Philby è un vero professionista e le sue risposte sono degne della sceneggiatura di un ottimo spy movie. Signor Philby, dopo la sparizione di Burgess e McLean, le è stato chiesto di rassegnare le dimissioni dal suo incarico di segretario dell'ambasciata. È emerso che lei potesse avere connessioni con i comunisti. È per questo che le hanno chiesto di dimettersi? Mi hanno chiesto di farlo per via di un rapporto incauto, diciamo. Quello con Burgess? Esatto. E cosa può dirci di quelle accuse di connivenza coi comunisti? L'ultima volta che ho parlato con un comunista, e non sapevo nemmeno che fosse comunista, è stato nel 1934. Allontanato per l'ennesima volta il pericolo di venire smascherato, Philby viene riabilitato dall'MI6 e mandato a Beirut, sotto copertura. Sarà un giornalista inviato del prestigioso The Economist. Tutto sembra filare liscio, come al solito, con Philby diviso tra la copertura ufficiale di giornalista, l'incarico ufficioso di agente britannico e l'altro incarico segretissimo di agente russo. Il lavoro di giornalista, tuttavia, finisce con l'esporlo un po' troppo. Nel 1962, una conoscente, nel corso di un party a Tel Aviv, beve un bicchiere di troppo e si lascia sfuggire di conoscere un tale di nome Philby, giornalista inglese a Beirut, che spesso simpatizza eccessivamente per gli arabi. Si dice anche che costui, a dispetto delle origini britanniche, lavori per i russi da sempre. L'indiscrezione non tarda ad arrivare sulle scrivanie dell'intelligence inglese e per Philby, stavolta, le cose si mettono male. I servizi segreti inglesi inviano immediatamente un agente a Beirut, ma Philby è già al corrente di quello che sta per accadere. Quando i due si incontrano, il 16 gennaio del 1963, l'agente inviato sul posto strappa a Philby la promessa di confessarsi presso l'ambasciata britannica alla fine di quel mese. Il 23 gennaio, però, Philby si imbarca clandestinamente sulla nave frigorifero russa Dalmatova, lasciando per sempre il Libano, la copertura e l'attività come agente britannico. Riemerge a Mosca dopo una settimana, ma sul suolo sovietico la realtà e il presente sono desolanti e il futuro sarà molto diverso da quello che lui si aspetta. I'm no suture of my future. I ain't jaded, I just hate it. Destini incrociati. Destini incrociati è in Russia, la patria d'adozione di Kim Philby, spia britannica da sempre indissolubilmente legata ai destini sovietici. La sua furbizia e il suo doppio giochismo, se così si può dire, gli hanno consentito di fare una brillante carriera. Ma ora che è stato smascherato, niente sarà più come prima. Rifugiatosi a Mosca, dopo che la sua copertura di giornalista è saltata e dopo le rivelazioni delle sue connivenze con il regime sovietico, Philby si ritrova in mano un pugno di mosche. I russi, cui è stato fedele anche se celato nell'ombra per oltre 30 anni, non gli tributano gli onori che si aspetterebbe. Philby scopre con rammarico e disappunto di non essere affatto un colonnello del KGB, ma solo un semplice agente con il nome in codice di Tom, e per circa 10 anni viene tagliato fuori da qualsiasi operazione e perfino dal quartier generale del comitato. Ma le conseguenze del suo smascheramento non si rivelano pesanti solo sulla sua pelle. Molti agenti dei servizi segreti britannici, infatti, subiscono indagini pesanti da parte della stessa intelligence di cui fanno parte, preoccupata che nel suo seno si annidino innumerevoli doppiogiochisti del calibro di Philby. Saltano parecchie teste, molti agenti vengono licenziati e altrettanti scelgono di andarsene. Tra questi c'è il nostro secondo protagonista di oggi. Per conoscerlo, cambiamo decisamente epoca e scenario. Siamo a New York, e più precisamente a Broadway, sulla 66esima strada, proprio di fronte al Lincoln Center. È la primavera del 2001 e nella storica sede della libreria Barnes & Noble si sta tenendo la presentazione di un libro intitolato Il giardiniere tenace. Forse questo titolo può trarre in inganno e far pensare a un trattato sul giardinaggio. Il libro in questione, invece, è un mix di suspense, intrighi diplomatici e dure panoramiche sociopolitiche. Il suo autore sta firmando copie a tutto spiano, sorridendo gentile ai clienti, lettori e ammiratori che affollano la sala. Il nome che scrive sul frontespizio di ogni volume è ormai un classico e un'istituzione della letteratura di spionaggio. Stiamo parlando di John le Carré. John le Carré. I've told a lot of lies. Racconto un sacco di bugie in proposito. E se vuole gliene racconto una. Ma no, le dirò la verità. Ormai non è più un problema. A quel tempo lavoravo ancora per i servizi segreti britannici e il mio responsabile mi disse: ok, puoi scrivere un libro, ma prima devi farcelo leggere e soprattutto devi usare uno pseudonimo. E così sono andato dal mio editore e lui mi ha suggerito dei nomi monosillabi tipo John Smith. Ma io volevo un nome che avesse tre pezzi, non solo due. E volevo che fosse un po' difficile da pronunciare perché avrebbe attirato l'attenzione nelle librerie in mezzo a tanti altri libri. Così mi sono inventato questo nome proprio come un esercizio di tattica. A freddo. Quando poi mi è capitato di spiegarlo ai giornalisti, a loro la semplice verità non piaceva, era troppo nuda e cruda, è troppo tecnica. John le Carré è lo pseudonimo di David John Moore Cornwell, ex agente dei servizi segreti britannici con la passione per la scrittura. Ma cosa ci fa, seduto in una libreria di New York a godersi l'apprezzamento di decine di ammiratori? Qual è stato il percorso che lo ha portato fino a qui? I came from a bookless house. È strano a dirsi, ma vengo da una casa senza libri. Sono figlio di un impresario che era anche un criminale ed è stato in prigione diverse volte. Una volta in Inghilterra, una volta a Giacarta in Indonesia, un'altra in Svizzera. Mia madre è sparita dalla mia vita quando avevo 5 anni. Nato nel 1925 a Poole, nel Dorset, regione nell'estremo sud dell'Inghilterra, il futuro agente segreto, con la passione per la scrittura, non ha certo un'infanzia facile. Sono stato in collegio da quando avevo 5 anni, ovvero da quando mia madre se n'è andata. E prima di aver compiuto 16 anni sono scappato dall'Inghilterra. Sono diventato una specie di rifugiato politico, perché mi rifiutavo di tornare sotto le grinfie di un'educazione tipicamente inglese. Sono stato all'università a Berne, in Svizzera. Poi sono tornato in Inghilterra. Ho fatto il militare, sono entrato nell'esercito e poi sono andato ad Oxford. All'università di Oxford, John studia letteratura tedesca e si laurea con un punteggio altissimo che gli permette di accedere in qualità di insegnante al celebre college di Eton. L'insegnamento, tuttavia, non è nelle sue corde. È un tipo di vita troppo statico per un inguaribile curioso come lui. La sua ottima conoscenza del tedesco, oltre che del francese, lo spinge a far domanda per un posto al Foreign Office, il Ministero degli Esteri britannico. E con le sue credenziali, farsi assumere, si rivela una passeggiata. Il suo futuro è in qualità di agente segreto, inizia a delinearsi con chiarezza. Ormai sono gli anni 60 e gli equilibri mondiali sono tutti giocati sul filo sottile e pericoloso della guerra fredda. È ovvio che anche chi lavora al Ministero degli Esteri britannico sia insieme partecipe e succube della situazione. E durante quegli anni in cui infuriava la guerra fredda che ho avuto i primi contatti con il mondo segreto. L'MI6 recluta John e lo spedisce prima a Bonn e poi ad Amburgo, in Germania, in qualità di consigliere politico. Durante questo periodo di attività segreta, John ha modo di addentrarsi nel mondo dello spionaggio ed apprendere i trucchi del mestiere che tanto faranno appassionare i futuri lettori dei suoi libri. Innamorato del brivido e del sotterfugio, John è comunque fedele alla sua patria. Ha certamente la stoffa della spia, ma non certo quella della controspia, a differenza di qualche suo collega. Ed è proprio con uno di questi colleghi pericolosi, Kim Philby, che si scambia occhiate allusive e preoccupate durante una riunione dell'MI6 in un imprecisato sotterraneo londinese. Di sicuro, Le Carré non ha idea che di lì a poco i comportamenti dell'agente Philby si ripercuoteranno anche sulla sua carriera. Ci siamo resi conto che il controspionaggio aveva una diffusione gigantesca e che tutto quello che facevamo era monitorato, che non poteva cadere uno spillo senza che l'enorme macchina del KGB non se ne accorgesse. Se parliamo delle esperienze di noi singoli agenti, beh, ormai sapevamo che le operazioni in cui eravamo coinvolti erano state compromesse da gente come Kim Philby. Lo smascheramento della spia Philby, di fatto, sta producendo conseguenze enormi. Ed è anche Le Carré, insieme a molti altri suoi colleghi, a farne le spese. L'intelligence britannica, preoccupata che al suo interno si annidino molte altre mele marce, decide di fare piazza pulita. Molti agenti sono caldamente invitati a rassegnare le dimissioni, oppure addirittura si ritrovano ad offrirle spontaneamente, spinti dal clima di diffidenza e sospetto creatosi inevitabilmente negli uffici dell'intelligence. Le Carré non esita a chiamarsi fuori da una situazione così difficile. Forse fare la spia non è il suo destino, forse a ben vedere la sua passione per lo spionaggio può continuare ad essere coltivata, ma in un modo del tutto diverso. Mentre le pericolose azioni di Philby lo portano a rovinarsi con le sue stesse mani e a guastare decine di altre promettenti carriere, per John Le Carré l'impasse si rivela invece estremamente produttiva. Per lui si spalancherà una nuova esaltante professione. Quello che era semplicemente un hobby e un divertissement da coltivare a tempo perso diventerà un lavoro a tempo pieno. All'inizio degli anni 60, la storia di Le Carré è ancora tutta da scrivere e sarà proprio lui a scriverla attraverso le pagine dei suoi romanzi. Destini incrociati. Destini incrociati è nei primi anni 60 e sta seguendo da vicino la carriera di John Le Carré, agente dei servizi segreti britannici destinato a diventare un romanziere di successo. Quando sono entrato nel mondo segreto intorno ai 25-26 anni in qualità di giovane ufficiale dell'intelligence, dividevo un appartamento con un altro giovane che scriveva e faceva anche lui la spia. Si chiamava John Bingham. Lui scriveva nelle pause pranzo, scriveva a tutte le ore. In qualche modo lui mi faceva pensare che anch'io potessi fare lo stesso. Ed è così che ho cominciato. Il 1961 è l'anno del suo primo libro, intitolato Chiamata per il morto. È a questo momento che risale la scelta dello pseudonimo John Le Carré. A questo primo lavoro, che registra un discreto successo di vendite, ne seguono altri due negli anni immediatamente seguenti: Un delitto di classe e La spia che venne dal freddo. Un'attività romanzesca febbrile, ma che non impedisce a John di esercitare con impegno la sua professione di agente segreto. A impedirglielo sarà un errore di Kim Philby, spia inglese che, assieme alla sua copertura, fa saltare la credibilità degli infiltrati di mezza Europa. Benché a John il lavoro come agente segreto piaccia moltissimo, non ci sono più le condizioni adatte per poter andare avanti. Noi eravamo i buoni, e lo eravamo perché facevamo il lavoro sporco. Il nostro lavoro sporco permetteva alla gente normale di dormire sonni tranquilli. Lo facevamo per mantenere l'equilibrio di una società giusta. Ma una volta che l'equilibrio si è spezzato a causa delle azioni sconsiderate di un singolo, è difficile ripristinare l'ordine precedente. Le azioni di Philby si ripercuotono inevitabilmente anche sulle Carré, che da questo momento in poi abbandona, un po' per scelta e un po' per imposizione dall'alto, l'attività di spionaggio, scegliendo di diventare invece un romanziere a tempo pieno. La passione per la scrittura non gli manca e nemmeno il materiale da cui attingere a piene mani. Si ritira nella sua casa in Cornovaglia, sulla punta estrema dell'Inghilterra, affacciata sull'Oceano Atlantico e costantemente battuta dal vento. Lì, in quel luogo lontano da tutto e tutti, così distante dalla frenesia della vita diplomatica cui era stato abituato, si prende il tempo necessario a mettere per iscritto tutte le esperienze che hanno affollato la sua vita negli anni dell'attività segreta. There's nothing here. Non c'è nulla qui, è tutto deserto, le colline sono deserte. Ma io posso renderle brulicanti di vita con i miei personaggi, la mia immaginazione. E la sua immaginazione, inevitabilmente, si è forgiata sull'esperienza maturata nello spionaggio. Per me è stata una cosa naturale. Ho seguito la regola implicita che comanda di scrivere di ciò di cui si è ferrati. E questo è quel che io conosco meglio. Il palcoscenico privilegiato dello spionaggio, sul quale Le Carré si è esercitato dal vivo in anni e anni di attività, non è semplicemente un'ambientazione o un genere come tanti altri. Per l'autore, si tratta di qualcosa di più importante. È una metafora della vita. È un mondo fatto di gente normale. Comunque, è un mondo che ci parla del nostro modo di essere legati al nostro paese di appartenenza. Ci parla della nostra identità e delle nostre insicurezze. Più siamo deboli, più stentiamo a riconoscere davvero chi siamo, più la condizione della segretezza ci risulta affascinante. Il fascino della segretezza è estrapolato da un mestiere e messo per iscritto. I lettori di tutto il mondo non potevano chiedere di meglio. Lo stile di Le Carré spiazza i lettori di tutto il mondo. Il suo modo di vedere lo spionaggio non è romantico, scintillante e patinato come quello di Ian Fleming, autore in quegli stessi anni delle avventure di James Bond. I personaggi che prendono vita sulle pagine di Le Carré sembrano essere la risposta critica e ragionata al sensazionalismo che invece è la cifra stilistica di 007. Se le vicende che coinvolgono Bond sono ben lungi dal sembrare concretamente calate nella realtà, piene come sono di treschi impossibili, assurdi marchingegni tecnologici e personaggi da fumetto, quelle descritte da Le Carré sono facilmente collocabili nella sfera del vero, ancor prima che del verosimile. L'arte dello scrivere, le tecniche di espressione, la disciplina dell'accuratezza, dell'attenta osservazione, sono tutte cose che ho imparato grazie alla mia vita segreta. Redigere un rapporto su un'investigazione segreta, un rapporto di quelli che possono arrivare sulla scrivania del direttore, beh, è inevitabile che si impari ad essere estremamente precisi e coincisi, perché i politici e i diplomatici non hanno tempo da perdere. L'esercizio assiduo dell'accuratezza da parte dell'agente segreto ha fatto sì che i personaggi che popolano le pagine dello scrittore diventassero tridimensionali a tutto tondo e che l'interazione con l'intero universo circostante fosse complessivamente più realistica e meno glamour. George Smiley, protagonista di molti dei romanzi di Le Carré, si configura come un vero e proprio anti-Bond. Trasandato nel vestire, incapace con le donne, eppure assai arguto se si tratta di fiutare la verità. I romanzi realistici di Le Carré ottengono un grande successo di pubblico e i suoi personaggi a tutto tondo all'occorrenza vengono fatti rivivere sul grande schermo da attori del calibro di Sean Connery e Michelle Pfeiffer. Dov'è questo manoscritto? Non sono affari tuoi. Questo lo dite voi. Lo ha mandato a me come editore. E per la miseria è molto più mio che vostro. Ti prego, calmati. Si trova in buone mani, Barley. Il manoscritto è su 3 quaderni di appunti. Quando Nicky non ti ha trovato a Londra, ha avuto il buon senso di portarli a noi. Il titolo di questo film, La Casa Russia, ci riconduce per associazione alla vicenda di Kim Philby, che nonostante le sue origini inglesi, ha scelto proprio il suolo sovietico come sua casa e terra d'elezione. Dopo il suo smascheramento e la precipitosa fuga a Mosca, Philby passa anni molto difficili, in cui si rifugia nell'alcol come unica soluzione all'isolamento impostogli dai superiori. È forse questo il premio ottenuto in cambio di una vita e di una carriera interamente dedicate al servizio di un paese scelto per amore e non per convenienza. Anche per Philby, tuttavia, arriva una forma seppur tardiva di riscatto. Negli anni Ottanta, le nuove gerarchie dei servizi segreti russi decidono di riabilitare l'agente inglese, dandogli l'opportunità di rendersi ancora utile all'Unione Sovietica. Viene coinvolto nei programmi di formazione agenti esteri in qualità di consulente e istruttore per le giovani spie da infiltrare. La sua esperienza, in qualche modo, viene messa a servizio delle future generazioni di spie. Alla sua morte, nel 1988, il governo sovietico gli garantisce i funerali di Stato e gli conferisce onorificenze postume come tributo per il suo servizio cinquantennale alla nazione. Chi era veramente Kim Philby? Un idealista? Un furbo? Un anarchico? Un traditore? Spetta al suo doppio Le Carré, in un passo di uno dei suoi romanzi, tentare di dipingere una sorta di ritratto della figura dell'agente segreto. Cosa pensate che siano le spie? Preti, santi, martiri? O forse una lunga processione di schifosi traditori? O forse ancora dei pazzi scriteriati e degli ubriaconi che amano giocare agli indiani e ai cowboy per ravvivare le loro patetiche esistenze? John Le Carré e Kim Philby, due uomini e due spie, le cui vite si sono incrociate per un istante, divergendo immediatamente e inesorabilmente. Uno romanziere di successo, l'altro traditore a lungo misconosciuto dagli stessi che l'avevano spinto a tradire. Chi ha torto? E chi ragione? Questo è sì un gioco sporco, ma cerebrale ed intellettuale. Raffinato in un certo senso. Non conta da che parte si sta, se con la ragione o con il torto, con i rossi o con i neri. Quello che conta per una spia è avere o avere avuto il coraggio di vivere pericolosamente. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.